Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, magari in viaggio verso il mare, la montagna, i laghi. Ebbene, oggi anch'io voglio viaggiare con voi e vi porterò in Sardegna, ma non nella Sardegna, diciamo, quella scontata, quella della Costa Smeralda o di altre aree molto conosciute. Vi voglio parlare del Medio Campidano. Ebbene, qualcuno dirà, ma dov'è il Medio Campidano e quali sono i luoghi del Medio Campidano? Ovviamente chi non è sardo e chi non conosce molto bene la Sardegna, of course. Ma il Medio Campidano è Villa Cidro, San Luri, San Gavino Monreale, Guspi, Gonnos Fanadiga, Sardara, Samassi, Serrenti, Barumini e via di seguito. Perché vi voglio portare in quest'area? Perché a una cinquantina di chilometri da Cagliari è vicino al mare e magari può essere una meta per chi va in vacanza e qualche pomeriggio vuole andare a scoprire dei prodotti, vuole andare a scoprire dei siti archeologici, vuole andare a scoprire dei ristoranti, vuole andare a scoprire delle golosità magari che sono uniche di questo territorio. Ebbene, quindi assieme andremo alla scoperta di tutto questo e questo viaggio lo voglio cominciare assieme a una giornalista che è Stefania Pusceddu. Buongiorno Stefania. E buongiorno Davide. Che scrive appunto in un giornale del Medio Campidano e magari poi ci dirà anche la testata, perché è giusto che sia ricordata anche la testata di Stefania. E voglio cominciare con lei, magari che ci faccia una panoramica sul medio Campidano. Stefania, puoi raccontarci qualcosa della tua terra? Innanzitutto, come si chiama la tua testata? Allora, il giornale si chiama per l'appunto La Gazzetta del Medio Campidano, è un quindicinale nel quale raccontiamo fatti di attualità proprio di questa provincia, ma anche appunto le sue bellezze e gli appuntamenti che servono proprio per valorizzarle e farle conoscere anche all'esterno. Ecco, per una volta cominciamo invece dal cibo, anche se questa trasmissione è identificata sul cibo, ma io dico sempre che è meglio parlare di cultura materiale. Allora, il territorio del Medio Campidano ha delle cose straordinarie dal punto di vista archeologico. Ce le vuoi raccontare? Allora, intanto premetto appunto che il Medio Campidano è una nuova provincia che nasce da una, diciamo, una branca della provincia di Cagliari, che oggi è diventata autonoma anche per risaltare appunto le sue particolarità. Intanto dal punto di vista geografico è caratterizzata dalla presenza di una bellissima pianura e quindi di conseguenza anche da delle buone colture agricole, ma anche da dolci colline, quelle della Marmilla. Poi abbiamo un rilievo montuoso del Linas e finalmente anche poi il mare, quindi con i suoi estesi deserti sabbiosi. Avete tutto, insomma, avete proprio tutto in Medio Campidano. Sì, abbiamo tutto, quindi dal mare alla montagna, e questo ci permette anche poi di offrire una variegata produzione di prelibatezze della tavola, che la stessa provincia dall'inizio della sua legislatura ha cercato di valorizzare creando questo paniere, al quale hanno aderito tantissime aziende, che serve proprio per mettere tutte assieme in un cesto le bellezze del nostro territorio, che sono anche spesso delle piccole rarità. E quindi potremmo fare qualche piccolo esempio, se siete d'accordo. Prego, sì, certo. E quindi ci sono dei ispistoccus, che sono dei dolci di Serrenti particolarissimi nella loro lavorazione e nel loro aspetto. Ne abbiamo appunto qualche produzione da tramandata dalle nonne, no? Quindi certo. Una cultura che si ripete col tempo e che è una tradizione custodita anche un po' gelosamente dalle donne di casa. Ma poi abbiamo anche ad esempio un'ottima produzione di miele anche amaro, quindi miele di Corbezzolo, e tantissime altre varietà che servono tra l'altro per la realizzazione di uno squisitissimo torrone. Quindi in Bene. Sardegna non c'è solo il torrone di Tonara, molto molto famoso, non facciamo del campanilismo, ma ce ne sono anche altri volevo dire, proprio nel Medio Campidano si trova anche il torrone, insomma. E potremmo parlare ancora di zafferano, che è una nostra eccellenza. Ecco, dopo sullo zafferano approfondiremo a lungo, perché sicuramente perché è un'area importante, ha ottenuto la DOP, grandi produzioni, quindi sentiremo qualche produttore. Poi dico subito una cosa molto curiosa, che a San Gavino Monreale c'è un bar che addirittura fa il cappuccino allo zafferano, pensate un po', quindi addirittura lo zafferano viene messo proprio in ogni salsa, anzi in ogni caffè. Comunque ecco, andiamo, zafferano e poi ancora? E poi ancora potremo parlare di pecora nera. Anche questa approfondiremo a lungo perché è una grande rarità. Poi ancora? E poi ancora diciamo che ci sono anche poi dei vini autoctoni della Sardegna che si trovano appunto come cultivar nel Medio Campidano, e mi riferisco alla Bovale, Malvasia, Nasco, Nuragus, Monica e Cannonau, insomma, che sono quei vini che parlano ecco, sardo, e che stanno ottenendo comunque ottimi riconoscimenti anche nel panorama internazionale. Ecco Stefania, rimani con noi perché ora andiamo a Barumini. Barumini è importantissimo perché è una località che ha il sito, uno dei siti archeologici più importanti d'Europa, è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità appunto dall'UNESCO, e questo qui si chiama la Reggia di Sunuraxi appunto, e dicevo importantissimo, ovviamente stiamo parlando di Nuraghi ovviamente, e proprio l'uscita di questo splendido posto, invito ad andarlo a visitare perché veramente è straordinario, magari non in una giornata di molto sole perché si rischia magari un'insolazione, ma sicuramente verso sera è straordinario, ci sono delle guide bravissime tra l'altro, e all'uscita troviamo appunto un hotel che si chiama Sunuraxi, a pochissimi metri, di cui è proprietaria Tonina Locci. Buongiorno signora Locci. Buongiorno a lei, dottor Davide. Allora, cosa si mangia da lei? Ci racconti qualcosa, perché magari dopo che uno è uscito dalla visita, da questo impegno culturale così forte, ha voglia magari di mangiare e di bere. Allora, intanto il nostro hotel è in un'azienda agricola e quindi produciamo sia le verdure, la frutta, il nostro olio, quindi utilizziamo anche delle materie prime della nostra azienda. Prepariamo le paste fatte in casa, come per esempio i nostri orecchioni mantecato di mandorle e porcini, che la prepariamo con la pasta sfoglia, poi il ripieno è basato su formaggio a pasta molle, delle mandorle, sempre dei nostri mandorletti tostate e quindi passate nel mortaio, e quindi ci mettiamo un po' di noce moscata. Richiusi questi tortelli e vanno cotti chiaramente e conditi con i porcini e un po' di olio tartufato. Non è un pochino anomalo rispetto a quella che è la tradizione della nostra provincia, però abbiamo voluto fare questo piatto proprio per diversificare la produzione, e poi soprattutto perché produciamo certe materie prime. Ecco, ci dice anche un buon dessert, che lei magari un buon dolce? Per esempio le nostre pardule, oppure anche le torte, le crostate, le sevavas che produciamo sempre noi. Bene, io la ringrazio, grazie. Allora usciamo da Barumini, dal Sunuraxi, e ci dirigiamo in altra parte. Io volevo così richiamare Stefana Pusceto, perché oltre a questo sito archeologico così importante, abbiamo anche una zona mineraria davvero molto importante dal punto di vista archeologico. E ce ne vuoi parlare, Stefania? Sì, una delle diciamo perle poi del Medio Campidano è proprio le miniere dismesse di Montevecchio. In questa zona, intanto in una cornice naturalistica stupenda, quindi c'è tanto verde, c'è tanto da vedere anche da questo punto di vista, e poi c'è praticamente la storia della nostra gente, quindi di un popolo di minatori che hanno sudato con fatica, hanno sfamato famiglie e soprattutto hanno lavorato in una delle miniere che nell'Ottocento era tra le più grandi d'Europa per l'estrazione di zinco, argento, piombo, e quindi e si possono visitare ora? Si possono visitare queste miniere ora? Sì, ecco, è questo. Da diciamo questo cuore che ha smesso di battere della miniera, oggi abbiamo praticamente riconvertito questi locali e a Divendoli appunto a scopo museale, per dare l'opportunità a tutti di entrare e respirare quel mondo della miniera. Quindi possiamo visitare oggi il Palazzo della Direzione, dove risiedevano appunto i direttori della miniera, che fa conoscere anche i fasti di quell'epoca, quindi con tutti gli arredi lussuosi, e poi anche il contrasto invece del mondo del minatore, proprio nella visita, lo si può vedere nella visita dei cantieri di Levante della miniera, quindi alcune officine. Ovviamente non è ancora tutto visitabile, però è possibile vedere. È possibile, con appunto anche qui con l'ausilio delle guide, entrare appunto in questo mondo affascinante, perché comunque si respira tutta la nostra cultura e tutto il nostro patrimonio. Bene, rimani ancora con noi, perché ora andiamo a Funtanazza, vicino ad Arbus. Arbus è sul mare. Andiamo perché veramente c'è un agricoltore, c'è un allevatore casaro che ha una preziosità. Buongiorno a Mauro Lampis. Buongiorno, dottor Paolini. Allora, Mauro Lampis è un allevatore di pecore nere. Tutti abbiamo, quante volte abbiamo detto, sei una pecora nera, oppure quello lì è una pecora nera. Bene, la pecora nera esiste veramente. Magari qualcuno ha sempre pensato che fosse semplicemente una metafora particolare. In realtà, vero Lampis, esistono le pecore nere, come? Sì, infatti, qui ad Arbus esiste questa pecora nera, che è stata addirittura registrata nel registro anagrafico nazionale come seconda razza in Sardegna, proprio come pecora nera di Arbus. Ecco, cosa c'ha di particolarità questa pecora dal punto di vista magari della carne, del latte? Praticamente è una pecora che si adatta ai terreni, ai pascoli cespugliati con macchia mediterranea, quindi cerca delle erbe particolari, di conseguenza il latte viene migliore, e anche il formaggio da cui appunto il latte viene... Ecco, lei produce una serie di pecorini, sia mi sembra stagionati che freschi, no? È così? Sì, facciamo praticamente pecorini tutti al latte crudo, con diverse stagionature, e anche uno con caglio di cardo. Ecco, mi pare che abbia chiamato i suoi pecorini con dei nomi particolari, ce ne vuole dire qualcuno? Dunque, praticamente uno è Petro, che praticamente è in onore di nostro padre, nostro bisnonno. Infatti questa è un'azienda familiare con 160 anni di storia, che è stata tramandata tramite fino a noi praticamente. Quindi Pedro, poi? Poi abbiamo Carlotta, che è un nome così, diciamo, messo così da noi per abbinarlo con la cacciotta, diciamo. Abbiamo scelto dei nomi particolari che si ricordino praticamente. Senta, il pecorino che lei fa col caglio di cardo, quindi è riferito anche a quel mondo vegetariano che assolutamente rifiuta di mangiare i formaggi quando c'è caglio animale, se non erro. Sì, infatti. Poi noi facciamo agricoltura biologica, quindi siamo tutto sul naturale, diciamo. Ecco, la carne di pecora nera è molto più tenera, cioè com'è? È diversa dalla carne di pecora? Sì, è più buona, più tenera, e ha sapori particolari, forse anche perché noi siamo vicino al mare, assume questi sapori particolari, diciamo. Quindi bruca l'erba che sa di salmastro, insomma. Sì, infatti. Quindi sia il formaggio che la carne ha sapori appunto diversi e unici, diciamo. Ecco, diciamo che i francesi vanno grande vanto del loro pressalé come agnello, e noi lo abbiamo naturalmente e magari non lo pubblicizziamo. Grazie a Lampis, grazie. Ricordiamo appunto azienda agricola Funtanazza, la pecora nera, non si può dimenticare la pecora nera. Volevo chiederle un'ultima cosa, Mauro Lampis, ma prego. È diffusa in Sardegna la pecora nera ora? Come? È molto diffusa la pecora nera? Diciamo che alle ultime statistiche dovrebbe esserci circa 400-500 capi. Quindi pochissime, insomma. Diciamo che la via di estinzione si sta un po' riprendendo praticamente. Quindi bisogna salvarla assolutamente? Assolutamente. Bene, ma lei le chiama per nome le pecore nere? Qualcuno sì. va bene, grazie a Mauro Lampis. Torniamo a Stefania Pusceddu. Stefania, abbiamo visto il sito archeologico di Barumini, abbiamo visto il sito minerario, ma io so che ci sono anche altre cose molto interessanti dal punto di vista, se vogliamo, archeologico-artistico da vedere. Sì, vabbè, diciamo che quasi ogni paese, parliamo di 28 comuni del Medio Campidano, meriterebbe di essere visto, proprio perché si potrebbe fare un piccolo itinerario, no? Tra le bellezze locali. Sicuramente c'è il castello di San Luri, il castello del periodo giudicale. Abbiamo delle bellezze anche a Sardara, un pozzo al centro del paese, un pozzo sacro. E poi diciamo che c'è una particolarità, ad esempio, che vorrei raccontarvi di Villamar, che è famosa per i murales, e quindi ci sono tantissimi murales all'interno di questo paese, che appunto lo rende celebre anche in tutto il territorio. Diciamo che venendo da Cagliari si può fermare anche a San Sperate, così si vede un altro paese con i murales e uno fa veramente un giro interessante, perché in Sardegna diciamo che qua e là sono molto diffusi i murales, c'è questa arte che, cominciando da Orgosolo, si è molto diffusa e ne ha fatto della Sardegna veramente un proprio itinerario. Uno può fare veramente un grande itinerario nei murales della Sardegna. Scusa se ti ho interrotto, puoi andare avanti. Carità, anche perché poi diciamo appunto si può andare avanti sempre con questo tour nel Medio Campidano, anche per conoscere il Parco Per de Vivara, che comunque sia è sempre un tuffo nel mondo della natura, che si trova a Gonno Sfanadiga. Ecco, visto che hai citato Gonno Sfanadiga, noi ora ci colleghiamo con un produttore di salumi importante, Antonio Sogus. Buongiorno Antonio. Buongiorno a lei. Allora, la macelleria è re di Pinna Giovanna, la sua azienda. Io so che lei produce degli ottimi salumi, anzi qualcuno li ho anche assaggiati, ma ci dice la materia prima, da dove arrivano questi maiali? Allora, noi abbiamo diciamo un piccolo salumificio, lavorazione a livello di nicchia, i suini sono tutti locali, tutte carni locali, essendo al piede del Monte Lina, diciamo, facilita la lavorazione di queste carni, abbiamo un clima giusto in modo da tutelarci nella lavorazione delle carni, ecco. Senta, quali sono, diciamo, qual è il salume più importante, il guanciale o il prosciutto o la salsiccia, quella tipica del vostro territorio del Medio Campidano? C'è un qualcosa di molto caratteristico? Sì, abbiamo la salsiccia, comunque la nostra prelibatezza è anche la lonza del maiale, la mustela. Ah, ecco, sarebbe il filetto del maiale. Voi lo chiamate mustela, quindi. Sì, esatto. Che viene stagionato? Sì, viene sempre stagionato. Senta, Sogus, ma esiste un maiale di razza sarda? Sì che esiste, ce l'abbiamo. Ecco, e che tipologia è? Beh, vicino al large white oppure è nero? No, è nero, non neanche nero, va sul grigio. Ho capito. Quindi è un maiale grigio. Senta, dei salumi che abbiamo così citato, ce ne sono alcuni che voi stagionate lungamente oppure diciamo che dopo un anno vengono tutte le parti del maiale vengono utilizzate? No, abbiamo il prosciutto che andiamo sui 18 mesi, 20 mesi, 24 mesi. Ho capito. Dipende dalla grandezza del suino, ecco. Noi andiamo lentamente con le stagionature in modo da esaltarne sia la fragranza e il gusto, ecco. C'è un particolare momento quando sulla macellazione del maiale voi avete così dei riti particolari, cioè, diciamo, c'è una tradizione sulla macellazione del maiale tra ottobre e febbraio oppure ormai è sparita questa, diciamo? No, c'è, è ovvio che i mesi invernali sono i mesi migliori perché le carni sono, cioè, è il loro periodo, diciamo, il loro periodo esatto della lavorazione. Ecco, lei lavora solamente maiale o anche altre cose in macelleria? No, abbiamo la macelleria, poi abbiamo il salumificio. Ecco, quindi la macelleria, cos'è che è razza Toro Rosso, mi sembra che esista in... Sì, noi lavoriamo il Modicano Sardo, il Bue Rosso. Il Bue Rosso, che ormai sta diventando famoso. Cos'ha di particolare questo Bue Rosso? Allora, il Bue Rosso, le dirò, magari è più grassa in mezzo, è più venata di grasso, però è molto più gustosa, è molto più delicata, nel senso che resta anche molto tenera, ecco. Ho capito. Bene, grazie a Antonio Sogus della macelleria Giovanna Pinna di Gonnos Fanadiga. Bene, continuiamo questo viaggio e ora andiamo in un altro paese che si chiama Las Plazas. E qui cosa c'è di interessante? Bene, interessante, qui c'è una grande produzione di legumi. E io do il buongiorno ad Adolfo Erbi della cooperativa agricola 60. Buongiorno Erbi. Buongiorno dottor Paolini, come va? Bene, bene, lei sta bene? Si tira avanti. I suoi legumi stanno bene? Beh, insomma, quest'anno un po' sono stati un po' compromessi, in parte per l'annata, per le alluvioni che sono successe, insomma. Però, insomma, non ci possiamo lamentare. Quindi ci lamentiamo sempre che piove poco quest'anno che ha avuto molto... Infatti, nonostante sia una cultura che resiste molto alla siccità, purtroppo... quest'anno ha fatto il contrario, abbiamo seminato un po' fuori tempo, però diciamo che non ci sono problemi, ecco, secondo noi. Senta Erbi, mi dice un po', cioè voi producete ceci, lenticchie? Allora, noi produciamo ceci di due qualità, lenticchie di due qualità e fave. Quindi diciamo che avete una produzione abbastanza vasta, insomma, con agricoltura biologica? No, biologica non è fattibile, ancora non è fattibile da noi. Ecco, cosa c'hanno i ceci? Quali sono le qualità di ceci che voi mettete su? Noi abbiamo il Pascià e il Sultano, quello cosiddetto Barracucu, quello detto in lingua sardo, ecco, un dialetto sardo, Barracucu, quello grande in effetti. Bene, bene, un bellissimo suono, è onomatopeico questo suono. Senta, e la lenticchia invece come? La lenticchia abbiamo quella tradizionale sarda, è quella grande, poi abbiamo l'altro tipo, quella tipo pantelleria, sono sementi che ci ha dato anni fa l'Ersat di Villamar, collegati con il coso di sperimentazione di Oristano, e loro fanno sperimentazione nella loro azienda a livello regionale, e quindi ci hanno dato questi sementi, ottimi insomma, e che vanno seminati... Non come si faceva anni fa, quello tradizionale, si potevano seminare a metà febbraio o marzo, questi vanno seminati paralleli, diciamo così, al grano, cioè nella fine di novembre. Senta, metà novembre e fine di novembre. Erbi, ci sono dei piatti tradizionali basati sui legumi nel suo territorio? Cioè dico paste, minestre, qualcosa di particolare. Allora noi facciamo, siccome noi abbiamo anche una sagra che facciamo, quest'anno la facciamo a settembre in effetti, grazie a contributi che ci dà la provincia del Emilio Campidano, direi che anche grazie alla provincia abbiamo anche ricevuto anche degli incentivi, non solo noi ma anche tutta la catena agricola in effetti. È quella di vivere alla campagna, non so se lei lo sa, questo progetto che sta mettendo sulla la provincia. Sì. Vivere alla campagna significa che diversificare insomma la cultura, insomma, un anno grano e un anno grano, un anno a legumi. Quindi una rotazione. Per consentire di il terreno. Ecco, mi dica un piatto con i ceci, cos'è che fate? Allora, noi per la fava ad esempio, per la fava facciamo la... va messa sempre a molle sì, dalla sera prima, poi all'indomani va asciugata, va messa, prima l'acqua deve essere bollita, va messa all'ebollizione e poi va messa la fava dentro. Poi ci sono altri, tipo ad esempio il condimento ci va dall'olio sì, non molto, ma sì, diciamo così, sì, giusto per... E poi le bietole tagliate a piccoline, e poi un po' di cipolla, insomma, e cottena di maiale. Bene, io la ringrazio Erbi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio nel Medio Campidano. tra Villa Cidro, San Luri, San Gavino Monreale, Guspini, Gonnos Fanediga, Sardara e via di seguito. Bene, abbiamo sentito siti archeologici, abbiamo parlato di miniere, abbiamo parlato ancora di paesi da visitare. Allora voglio chiedere ancora a Stefania Pusceddu, che ci accompagna in questo viaggio, magari di raccontarci oppure di dare un consiglio ai nostri radioascoltatori di qualche paese particolare da visitare. Bene, io avrei Tuli, non so cosa ne pensi tu, Stefania Pusceddu, da andare a visitare, con due chiese secondo me molto interessanti. Allora, mi permetto, Tuili, perché tanto in Sardegna gli accenti sono tutti particolari. Sì. Allora, Tuili è un paese molto carino, che assomiglia in effetti anche ad altre della Marmilla, cioè hanno tutti questo tratto comune, sembra che il tempo lì si sia fermato. Sono ovviamente piccoli comuni, quindi molto graziosi, ben curati, ben puliti, quindi insomma invogliano anche alla visita, e con anche strutture realizzate con tecniche anche tradizionali, quindi noi abbiamo comunque la particolarità del mattone crudo detto sull'Adiri, e quindi nei piccoli paesi si trovano ancora tracce di storia, quindi un'architettura diciamo antica, questo già piace molto ai turisti. Poi chiese particolari, particolarmente belle da visitare, effettivamente meritano, però vorrei anche ricordare che nell'ambito del territorio provinciale ci sono tantissime chiesette campestri che meriterebbero di essere viste, che sono state anche oggetto di studio di un amatore appunto di chiesette, che ne ha fatto proprio una sorta di guida alle chiesette campestri proprio del Medio Campidano, ma lui in realtà sta facendo lo stesso progetto per tutto il resto d'Italia, però da noi ha trovato in effetti grandi numeri, quindi invito sicuramente a visitare Tuili, ma siccome sono paesini ravvicinati invito anche a visitare Turri, Segariu, appunto abbiamo parlato di Las Plazas, che ha tra l'altro anche un bellissimo castello, i resti di un castello che dall'alto diciamo governano tutto il territorio, quindi insomma merita. Bene, bene, ora facciamo uno stop dove? A San Gavino Monreale. Ebbene, qui vogliamo sentire Chiara Meloni dell'azienda agricola Inconis Gavino, appunto di San Gavino Monreale, che tra l'altro è presidente dell'associazione Zafferano di San Gavino Monreale. Buongiorno, buongiorno Chiara. Buongiorno. Allora, è talmente importante lo Zafferano diciamo nel Medio Campidano, che contamina un po' tutti i piatti, ma ne producete veramente tanto, Chiara, di zafferano? Guardi, a San Gavino la produzione si stima la coltivazione di almeno una ventina di ettari, quindi ci possiamo considerare la capitale d'Italia per la coltivazione dello zafferano. E, diciamo, è anche importante per la sua qualità, dovuta a è un'alta qualità appunto legata a tecniche tradizionali e uniche al mondo per la lavorazione, che praticamente noi, al contrario di altri paesi, al momento della raccolta e della lavorazione utilizziamo l'olio, che viene chiamato nella nostra lingua Saveda Dura, che queste tecniche di lavorazione arricchiscono anche la qualità del prodotto. Ecco, ma da quanto tempo si coltiva zafferano appunto a San Gavino Monreale? Guardi, l'unico documento, diciamo il documento più antico è nel 1539, che appunto è un atto notarile dove un ciabattino di San Gavino Monreale andava a Cagliari per degli acquisti e pagava con lo zafferano. Però c'è anche un'altra ipotesi, che lo zafferano fu introdotto nel IX-X secolo dai monaci basiliani, in quanto noi abbiamo un convento e quindi questo convento ospitava i monaci, che lo utilizzavano sia per motivi liturgici sia come colorante per i tessuti. Senta, lo zafferano diciamo che appare in moltissimi piatti della tradizione del luogo. Diciamo, noi partiamo dal semplice antipasto fino ad arrivare al dessert. Lo utilizziamo nel semplice sugo di pomodoro, che con diciamo arricchisce il piatto e dà quel gusto particolare che è indimenticabile, arricchisce il piatto in modo straordinario, ecco. Io posso dire che non dimentico di metterlo. Lei lo mette sempre. Quanto costa? Quanto costa? A quanto lo vendete lo zafferano a letto? diciamo che lo zafferano generalmente viene venduto a grammi. Le immagini che per un grammo di zafferano si condiscono una media di dai 40 ai 60 piatti di risotto, che è la pietanza che richiede più zafferano. Naturalmente è un consiglio che diamo noi produttori, di acquistare sempre lo zafferano in stimmi, perché è una garanzia per il consumatore. Sì, certo, con l'imbustina in giro c'è di tutto, quindi mi sembra giusto questo appello. Però le richiedo, quanto costa un grammo? Un grammo viene a costare una media dai 12 ai 15 euro il grammo. Sì. Beh, quindi diviso per 60 piatti, insomma, alla fine si può acquistare sicuramente. Senta, Chiara, a quanto mi risulta, al suo paese c'è un bar addirittura che fa cappuccino allo zafferano, è vero? Esatto. Si prepara anche il cappuccino allo zafferano, sì. Bene, bene, bene. Ma guardi, io ho detto questa cosa a un grande cuoco che è Gualtiero Marchesi e mi ha detto che secondo lui ci può stare, tant'è vero che lo voleva sperimentare, quindi magari vedremo nei prossimi giorni se lo lancia Gualtiero Marchesi. La ringrazio, grazie a Chiara Meloni. Bene, andiamo ora in località Laguna di Marceddì, ad Arbus, quindi sul mare. Andiamo da Battistino Mureddu dell'agriturismo Pertunghe. Buongiorno Battistino. Buongiorno dottor Davide. Lei dove lo usa lo zafferano? Allora, io lo uso sui ravioli, come si chiama? Lei non lo usa sul cappuccino, no? No, sul cappuccino no, lo uso per esempio su un formaggio, ecco. Formaggio fresco da consumare fresco, che è molto buono, sui ravioli e sui malloreddo, molto buono sui malloreddo, comunque va abbinato col pesce. Ecco, anche col pesce, giusto? Con i primi di pesce va benissimo. Ecco, la Laguna di Marceddì cosa ha di particolare? Allora, la Laguna di Marceddì è un compendio SIC, di alto interesse comunitario per quanto riguarda la fauna lagunare, tant'è vero che ci sono i fenicotteri stanziali, vari tipi, per esempio ho visto le cicogne, gli aironi cenerini ci sono sempre. Quindi le cicogne esistono, insomma, esistono le cicogne allora? Sì, sì, esistono. E il cigno reale, l'aquila pescatrice, noi ce li abbiamo proprio di fronte al nostro agriturismo. Quindi le avete proprio di fronte all'agriturismo? Sì, sì, 100 metri inizia la laguna. Allora, c'è proprio questa distesa di acqua che si vede, che dalle finestre dell'agriturismo sembra che stiamo entrando dentro l'acqua. Ho capito. È proprio questa illusione ottica. Bene, quindi comunque la zona è molto molto molto bella dappertutto, tutta la zona circostante. Ci sono molte cose, non so da dove iniziare. Ah, beh, perché sono tante le cose. Quindi lei dice che vale un viaggio allora la Laguna. Allora vale un viaggio. Poi c'è una particolarità nella nostra zona, che siamo tutta la provincia del Medio Campidano e così siamo al centro della Sardegna. Allora, da qualsiasi punto, con un'ora di macchina, si riesce a visitare quasi tutta la Sardegna, se non tutta. Quindi è molto importante questa cosa, per come la vedo io, perché gli ospiti, che poi diventiamo sempre amici sul nostro agriturismo, va a finire che riescono a visitare tutta la Sardegna partendo da noi. Questo è molto bello. Quindi lei dice che un viaggio nel Medio Campidano oppure per la Sardegna varrebbe la pena di partire dalla Laguna di Marceddì. Va bene, le terremo presente. Marceddì di Arbus. Però, siamo in una zona di Arbus. Arbus, Costa Verde, Piscinas. Quindi Piscinas, le miniere, insomma, posto di mare straordinario. Bene, la ringrazio Battistino, terremo conto di questa partenza, di questo viaggio. Ora andiamo a Serrenti, un altro paese che abbiamo già citato. Andiamo da Emanuele Frau, con cui parleremo pochissimo per poi cederemo la linea alla viabilità, poi torneremo sicuramente a riparlare con lui. Emanuele, quindi l'agricoltura offre tantissime cose, pomodoro, carciofi, e tu riesci a fare degli ottimi sottoli? Ma noi, grazie a Dio, abbiamo un territorio che produce tantissime specialità e noi sardi siamo riusciti poi a conservarle anche in ottimi modi, per cui abbiamo conservato una tradizione culinaria non indifferente, se sta solo nel riprendere queste antiche ricette e proporle al giorno d'oggi, ecco. Ma diciamo che tra le verdure più importanti per fare dei sottoli, i carciofi sono in primo piano? diciamo che anche per le produzioni di carciofi, noi qua nel Medio Campidano abbiamo una notevole produzione di carciofo, per cui anche la tradizione è andata di pari passo con l'agricoltura. Diciamo che il nostro carciofo è rinomato e conosciuto un po' in tutta Italia, e quindi anche il sott'olio, essendo un prodotto buono, quello fresco, non può essere cattivo quello sott'olio, diciamo. È una varietà particolare il carciofo della tua zona? Sì, noi abbiamo il violetto, diciamo che è quello che viene utilizzato maggiormente per queste produzioni. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a viaggiare nel Medio Campidano. Allora facciamo l'ultima stazione con Stefania Pusceddu, poi la lasciamo e la ringraziamo. Ci siamo dimenticati di qualcosa nel territorio da visitare, Stefania? Purtroppo di tantissime cose, perché il tempo è tiranno, sì. Però vorrei ricordare che esiste un calendario di eventi nel Medio Campidano che ci permette, attraverso appunto il filone delle eccellenze di ogni singolo paese, di scoprire appunto gli abbinamenti dei piatti, le bellezze naturali, un po' tutto assieme. Faccio qualche esempio: Sagra del Pane a Gonnosfanadiga, sempre a Gonnosfanadiga Sagra delle Olive e dell'Olio, e le cito perché sono i prodotti tra i più importanti di questo paese. Poi ancora abbiamo Sagra del Melone asciutto, coltivato in asciutto. Poi ancora, che cosa non voglio dimenticare, la Sagra dell'Otaferano, ne abbiamo parlato prima, di San Gavino, Villanova Franca e Turri. Bene, fermiamoci perché sennò poi creiamo confusione. Per vedere tutto ci vuole un mese, rimanere nel Medio Campidano. Grazie Stefania, grazie del tuo contributo. Bene, ora andiamo a Gonnosfanadiga, andiamo da Barbara Dejas. Buongiorno. Buonasera, buongiorno. Lei è una produttrice di olio. Sì, sono una produttrice di olio extravergine d'oliva e di olive da tavola. Ecco, qual è la cultivar che, diciamo, è diffusa nel Medio Campidano? Allora, nel Medio Campidano la cultivar per eccellenza è una cultivar autoctona ed è la Nera di Gonnos. Si tratta di una varietà, diciamo, pregiatissima sia perché è adatta alla produzione appunto dell'olio, e sia perché fornisce un'oliva da mensa molto interessante. Si tratta infatti di un'oliva che viene messa in saramoia e viene, diciamo, sia appunto deamarizzata che conservata esclusivamente con sale e acqua, senza assolutamente l'aggiunta di additivi. Ed è indicata per il consumo appunto con piatti, con antipasti, ma anche per la cucina in umido, diciamo. Ecco. In cucina in umido cosa intende per cucina in umido? Cucina di piatti, per esempio il coniglio alla cacciatora. Ah, ho capito. Quindi è molto, sì. Anche col pesce viene usata? Anche col pesce, assolutamente. Bene, grazie Barbara. Torniamo a Emanuele Frau della dispensa del Fattore. Emanuele, ma questa produzione di sottoli si riesce a distribuire bene, cioè anche fuori del territorio, o c'è molta difficoltà? Diciamo che noi non è da tanto tempo che facciamo questo lavoro, per cui stiamo facendo assaggiare il nostro prodotto, stiamo riscontrando ottimi risultati e a poco stiamo proponendoci anche fuori dall'isola e vediamo, un passo alla volta, da qualche parte. Stiamo già piazzando, siamo già a Milano, Roma, in Inghilterra, in Giappone, quindi aspettiamo che il nostro prodotto lavori da sé, diciamo, perché essendo un prodotto particolare ha bisogno anche di essere assaggiato. Ecco, mi dici quali sono le varietà appunto della produzione? Io ho ricordato i carciofi, ma ce ne sono altri di sottoli. Noi facciamo i cardi selvatici, facciamo gli asparagi selvatici, che sono dei prodotti naturali che crea la terra da sé, vengono raccolti e poi conservati sott'olio. Poi abbiamo anche i peperoncini ripieni, abbiamo i funghi Antunna, poi abbiamo anche le olive, anche noi facciamo le olive in salamoia, facciamo il pomodoro secco e poi cosa le posso dire, di alcuni prodotti facciamo anche le creme, sono creme gustosissime, 100% il prodotto naturale, per cui abbiamo delle creme che sono utilizzabili anche come antipasti oppure anche come condipasta, ecco qua. Ma l'agricoltura biologica è molto diffusa nel Medio Campidano oppure è ancora così, diciamo che è ancora per pochi? Ma c'è qualcuno che stava utilizzando questo metodo di agricoltura, adesso qualcuno ha lasciato, qualcuno ha continuato, purtroppo è un mercato anche quello lì molto ristretto, per cui non tutti possono fare quel prodotto, ma si deve diversificare la cosa, c'è chi fa l'uno e c'è chi fa l'altro. Bene, grazie Emanuele Frau della dispensa del Fattore. Bene, abbiamo parlato di tanti prodotti, ora torniamo a Barumini, che oltre ad avere, diciamo, questo sito archeologico ha anche dei produttori, ha molta produzione appunto attorno, e parliamo di apicoltura, e la Sardegna è sempre nota, è sempre importante per questo tipo di produzioni. Da Marinella Concu, buongiorno Marinella. Buongiorno a lei. Dell'apicoltura Isca e Muras. Ebbene, quale tipologia di miele producete, Marinella? Allora, produciamo quello di Sulla, quello di Asfodelo, Corbezzolo, l'eucalitto, che è il nostro proprio fiore all'occhiello, poi un po' di lavanda selvatica e quello di cardo. E un po' di trifoglio anche. Ecco, vuole spiegare ai radioascoltatori, perché la Sfodelo è una peculiarità sarda, tra l'altro un miele buonissimo che io adoro, ma ci spiega cos'è la Sfodelo, perché sicuramente molti non conoscono. È una pianta erbacea perenne, è molto diffusa dalla costa, poi anche nell'entroterra isolano, ecco, molto frugale, è una pianta che praticamente predilige, ha bisogno di poco, vive sugli incolti, sui pascoli. E ha una fioritura che va da marzo fino a maggio, nelle zone un po' più fresche, più alte, ecco. Bene, io la ringrazio, lo ricordo, Marinella Concu, avete sentito la varietà di mieli davvero interessanti dell'apicoltura Isca e Muras di Barumini. Bene, ora andiamo a visitare un agriturismo molto particolare in località Coarvigu a Turri, da Ferdinando Azzeni. Perché particolare? Perché in questo agriturismo si mangiano dei piatti e si mangia una pasta particolare che produce lo stesso Fernando. Buongiorno Fernando. Buongiorno a lei. Allora, lei produce pasta di semola, ma sicuramente la cosa più interessante è che usa un grano particolare. Ce ne vuol parlare? Beh sì, il grano particolare è un grano duro di altissima qualità, che è del senatore Capelli, che io coltivo ormai dal 1996, da quando sono entrato a far parte dell'agricoltura biologica. Quindi lei ha agricoltura biologica, quindi il suo agriturismo usa tutti i prodotti biologici, no, immagino. No, non mi sento di fare questa precisazione. Io uso gran parte dei miei prodotti, ma quel po' che mi manca mi approvvigiono. Certo. Perché non mi sono fregiato di agriturismo biologico. Bene, bene. Senta, i meloni in asciutto, lei produce anche meloni in asciutto, se non erro. Sì, sì, sì. Ecco, che la peculiarità sono quelli particolari gialli, i suoi meloni? No, il melone coltivato in asciutto è un melone verde con pasta bianco-giallina, molto dolci. Poi la loro peculiarità è quello di essere intanto genuini, proprio puri dal punto di vista di salubrità. E poi durano nel tempo grazie a questa coltivazione in asciutto e con metodi naturali che consentono questa conservazione per mesi. Io addirittura me li servo in agriturismo anche per tutto febbraio, staccati ad agosto, ecco. Senta, questa sua pasta di semola, la fregola, che io ho assaggiato, che è davvero straordinaria, lei come la prepara? Noi la prepariamo, intanto mi faccio macinare il grano da un mulino a pietra che si trova a Nurri, e una volta ogni 15 giorni, 20 giorni mi approvvigiono di semola fresca e me la trasformo con una piccola macchinetta che lavora molto lentamente, non la faccio a mano, se no avrei necessità di altre persone, una macchinetta che mi produce circa 2 kg ora, piano piano mi faccio i maloreddo, la fregola, le tagliatelle, la sfoglia per la pasta al forno e la sfoglia per i ravioli. Bene, io la ringrazio. Grazie a Ferdinando Azzeni, agriturismo su Massaiu. Quindi abbiamo chiuso questa trasmissione. Ora appuntamento domani, domenica, per la replica appunto alle 10, e quindi alle 12:15 il wine bar del gastronauta, e poi la pillola ogni giornata alle 18:30. Buon weekend dal vostro gastronauta.